Il nostro fratello Ettore Boschini nasce il 25 marzo del 1928 a Belvedere di Roverbella, questo paesino in provincia di Mantova. Lui è il terzo di quattro figli di una giovane coppia di contadini. Il papà si chiamava Francesco, la mamma Carolina, grandi lavoratori e anche benestanti per il potere che avevano. Quando Ettore ha 4 anni, però, la vita tranquilla di questa famigliola viene devastata da una gravissima carestia, che li costringe a lasciare tutti i poteri di famiglia, a lasciare la casa e a trasferirsi nella contrada di Malavicina. Papà Francesco, con pazienza e soprattutto confidando nel Signore, si rimbocca le maniche e insieme a Carolina, la moglie, ricomincia da capo. Hanno perso praticamente tutto, ma lui ha questa grande fiducia, questo grande desiderio di andare avanti. E nella nuova casa sono andati a vivere con loro anche i genitori di lui, cioè i nonni, anche se rimasti ormai senza beni. È una grande responsabilità per lui, ma l'accetta volentieri. Intanto Ettore, a 10 anni, terminate le elementari, proprio per aiutare la famiglia, viene mandato da alcuni parenti a Mozzambano come garzone di stalla. È un lavoro molto duro, soprattutto per un bambino, ma non è questo che lo spaventa. Quello che più gli dispiace è la lontananza dalla famiglia, di cui sente una grande nostalgia. Soprattutto la nostalgia forte è quello che lo afferra, lo attanaglia, è quello della mamma Carolina, una donna che amava molto, una donna mite, buona, che lavorava tutto il giorno senza un lamento per accudire nel modo migliore tutta la grande famiglia. E possiamo immaginarlo, per il nostro piccolo Ettore sono giorni molto difficili, ma resiste. Sa che questo sacrificio è necessario anche per far crescere i fratelli. E nonostante le avversità, lui stesso più tardi ricorderà questi momenti dicendo così: eravamo molto uniti fra di noi, solidali l'un con l'altro, e questo legame, anche quando ero molto giovane, mi ha sempre dato la forza di accettare le situazioni in cui mi trovavo coinvolto. Anche se i ritorni a casa erano rari, erano però sempre pieni di gioia. E anche a Natale, per esempio, bastava il pranzo speciale preparato dalla mamma, che erano poi un paio di polli, qualche mandarino e qualche pezzo di torrone, perché facesse tutti felici. Dopo qualche anno, purtroppo, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Lui è ancora un adolescente. Per dare una mano alla famiglia, va come contadino a giornata, dove gli capitava, accollandosi qualsiasi tipo di fatica. Basta che questo gli permette, l'importante è che gli permetteva di permettesse di raggranellare qualcosa da portare in famiglia. Infatti si vivevano tempi dolorosi, la guerra portava fame, paura, sacrifici senza fine. Succede però una cosa particolare: Ettore, crescendo, cambia. Diventa uno scavezzacollo, come dirà lui. Frequenta ragazzi più grandi di lui e nelle stalle, fra il bestiame, impara il peggio del peggio. Niente più dottrine il pomeriggio della domenica, ma scorrerie per i campi con i tanti coetanei, condito soprattutto da parolacce e volgarità di ogni genere. Ora è soltanto alla ricerca di piaceri. E a soffrirne in modo particolare è sì la mamma, donna di grande fede, ma anche il papà è ferito da questo atteggiamento incomprensibile. Arriva però la fine della guerra, e con la fine della guerra arriva anche il ritorno alla fede di Ettore, e la protagonista, come vedremo e come succede, cari amici, molto spesso, è la Madonna. Cosa successe in quel periodo? Venne organizzato un pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona a Spiazzi di Caprino Veronese. Era un'iniziativa nata dal popolo, dal cuore del popolo, voleva ringraziare la Madonna per essere scampati alla guerra. Il viaggio allora si fece in camion, non c'erano i pullman come oggi, quindi in camion, con tanti sacrifici, ma con tanta gioia nel cuore, con canti e preghiere lungo la strada. Racconta lo stesso fratello Ettore: giunti davanti alla statua della Vergine, il posto mi aveva molto colpito e avevo provato un'emozione strana che non so spiegare. Era turbato, la Madonna gli aveva toccato il cuore. Tant'è vero che verso sera, dopo aver partecipato a tutte le funzioni, e per lui questa era una cosa molto strana, essendosi ormai allontanato da tempo, sentì il forte desiderio di rientrare da solo in chiesa a pregare, rivolgendosi con fiducia e semplicità a quella che poi nella vita continuerà a chiamare cara mamma. Ebbene, cari amici, dopo quel pellegrinaggio, la vita di questo ragazzo cambiò radicalmente. Riprese la pratica religiosa, lui stesso dice: «Ho incominciato a leggere qualsiasi libro religioso mi capitasse tra le mani, il Vangelo soprattutto. Cercavo di comprendere gli insegnamenti di Gesù». Nel frattempo, però, la situazione economica e sociale che si viveva nel dopoguerra restava difficile, anzi direi drammatica, per la gran parte degli italiani. Non c'era pane per tutti, ma letteralmente non c'era pane, e molti figli andavano a lavorare lontanissimi da casa. Anche per Ettore fu la stessa cosa. Prima andò da uno zio, poi trovò una sistemazione come garzone di stalla. Anche le sorelline, per aiutare la famiglia, andavano a servizio come domestiche a Milano. Era una vita di fatiche, di stenti, e la salute di Ettore, che già era gracile, cominciava a mostrare i primi cedimenti. Come se questo non bastasse, durante il lavoro che svolgeva come garzone di stalla, veniva maltrattato in modo veramente disumano da parte dei padroni. Lo maltrattarono a tal punto che decise di andarsene. Questo gesto gli costò purtroppo, un gesto di grande coraggio, ma gli costò purtroppo un lungo periodo di disoccupazione e sarà una prova che inciderà fortemente sul resto della vita. Ma proprio questo periodo, pensate, lo fece avanzare molto sotto il profilo spirituale. In particolare, fra le altre, era devotissimo alla pratica dei primi venerdì del mese, ispirata, come sappiamo, da Gesù a Santa Margherita Maria la Cocca. Certo, quando era garzone non era facile per lui, proprio come garzone di stalla, costretto a vivere lontano dai centri abitati, a mantenere fede alla promessa di comunicarsi ogni primo venerdì del mese. E infatti, un venerdì purtroppo non riuscì ad arrivare in tempo in chiesa, proprio per il lavoro che svolgeva. Cosa successe? Che mentre se ne tornava sconsolato dalla chiesa, fece un incontro che lo colpì al cuore. Vide un uomo, lui non l'aveva mai visto prima, un uomo dalla tonaca nera, con una grande croce rossa sul petto. Era Fratel Cosier, il primo camigliano, il primo in assoluto, che Ettore avesse mai incontrato. Ma fu un incontro che rimase indelebile nel suo animo. Nel frattempo, però, la sua salute peggiorava. Il mal di schiena che lo tormentava da anni rivelò un'ernia del disco. Al tempo, sappiamo, non c'erano cure chirurgiche, l'unica soluzione era l'immobilizzazione in un pesante busto di gesso. Non potendo lavorare, ovviamente, venne ricoverato in ospedale e lui approfittò ancora di questo tempo per avvicinarsi ancora di più a Gesù. Iniziò a pregare con intensità, a riflettere sul suo stato di vita e sentiva nel cuore che il Signore gli chiedeva, per quello che poteva fare, di aiutare i fratelli che aveva vicino. Allora cosa fece? Appena fu in grado, si aiutava per quanto possibile anche gli altri degenti nel reparto in cui era ricoverato. E questo, cari amici, fu proprio il segnale della svolta che poi segnò tutta la sua vita. Tornato in famiglia, comprese che il matrimonio non era per lui. Sentiva invece un forte richiamo, ma veramente forte, alla vita religiosa. Però, prima di fare un passo avventato, chiese consiglio al suo parroco e il parroco lo invitò a un tempo di riflessione, di preghiera. Lo fece. Trascorse questo periodo, decise fortemente di entrare nei camigliani perché disse: aiutano i malati. Ma il problema era che il suo fisico non era robusto, la salute malconcia e la vita del camigliano, sappiamo, è impegnato a seguire i malati in corsia tutt'altro che riposante. Lo stesso padre provinciale che esaminò la sua richiesta rimase perplesso. Trovò però una soluzione. Fece entrare Ettore all'ospedale dei Camigliani Alberoni di Venezia, dove si curavano le malattie ossee e dove però poteva rimettere in ordine anche la sua schiena. Lui potrà quindi curare gli ammalati e nello stesso tempo curare se stesso. Ma i problemi, cari amici, non erano finiti. Proprio in quel periodo la situazione economica della famiglia diventò disastrosa, peggiorando di giorno in giorno, tanto che fu chiesto a Ettore di ritornare in famiglia per dare una mano con il lavoro che poteva fare. Tornò subito, ma fu per poco tempo perché, grazie a Dio, la situazione pian piano si rimise a posto. E così, con una grande gioia nel cuore, proprio il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio del 1952, ripartì per Venezia con la benedizione della mamma e iniziò il suo prenoviziato per poi, nel mese di ottobre, iniziare a San Giuliano di Verona il noviziato vero. E arriviamo così, cari amici, al 24 ottobre dell'anno successivo. Siamo nel 1953, quando in un clima di festa è Ettore che ha 25 anni e mette i voti temporanei. Tornato all'ospedale dei Camilliani Alberoni a Venezia, dona tutto se stesso ai ricoverati all'interno dell'ospedale e proprio i ricoverati in buona parte sono giovani afflitti da distrofia muscolare, sappiamo una malattia terribile che rende inerti braccia e gambe, talvolta anche la testa purtroppo, lasciando però assolutamente lucidi. E proprio il dolore grande, impotente di quei giovani è per lui e diventa per lui una scuola di carità senza limiti. Per 20 anni, pensate, vive questo servizio accanto ai suoi malati, che ama moltissimo e li accudisce con uno zelo straordinario, tanto che nel 1973 gli viene addirittura assegnato il premio alla bontà, titolato a San Giovanni XXIII. Nel frattempo, tra la fine del 73 e l'estate del 74, frequenta la San Pio X di Milano, alla clinica San Pio X di Milano, il corso di infermiere professionale per essere sempre più preparato. Ottiene il diploma e i superiori, che vedono anche la sua preparazione e il suo desiderio di servire, gli propongono di fermarsi a Milano presso la casa di cura per qualche mese come infermiere. E lui lo fa con piacere, ma ci sta poco perché l'anno dopo, nel 75, viene richiamato a Venezia tra i suoi ragazzi sofferenti. Un enorme lavoro da portare avanti, ma questa volta è veramente sfiancato e la salute precipita. Viene così trasferito prima nella casa di Predappio, poi in una casa vicino Trento, infine nel luglio del 1976 viene chiamato da padre Martignoni alla clinica San Camillo di Milano. Inizia proprio qui, così, questa straordinaria avventura milanese, ma qui quando arriva iniziano anche i grandi dubbi. La tentazione che gli viene inculcata dal nemico è la paura, pensate, di avere sbagliato tutto nella vita. E questa cosa lo rende veramente profondamente insicuro, addirittura angosciato. Prega, ma non vede la luce in fondo al tunnel. È una situazione veramente di buio spirituale incredibile. È un dolore insopportabile. E proprio pensate, da questa situazione, il Signore lo fa uscire grazie a un altro fratello, Giovanni Balgero, un uomo come lui, disponibile, molto amato da tutti, semplice. Nel frattempo però non sta con le mani in mano e si occupa quindi delle cure domiciliari ai malati, la cui famiglia appunto in città ne facessero richiesta. E a tutti i malati che incontra, il nostro fratello Ettore Boschini dona la sua grande carità e il suo amore senza confini. Nel frattempo però succede una cosa che lo stupisce da una parte, ma lo colpisce anche nell'animo. Infatti il suo andirivieni di famiglia in famiglia, percorrendo le strade di Milano ma alle ore più svariate, quindi sia di giorno che di sera che di notte, lo fa incontrare uomini e donne senza fissa dimora. Lui non le ha mai viste prima, sono persone, sappiamo, con vite difficili alle spalle, persone normali che ad un certo punto la vita ha scaricato, oppure come viene detto, hanno essi stessi scaricato dalle proprie spalle una vita che non diceva loro più niente. Ma lui, proprio guardando quei visi devastati, sofferenti, mentre si chiedeva perché fossero ridotti così, pensava anche a cosa poteva fare qualcosa, cosa poteva fare per loro. Cioè, aveva questo cuore grande, no, di donarsi totalmente. E l'idea gli venne un pomeriggio. Quel pomeriggio passava davanti al dormitorio pubblico, quello più grande di Milano. All'ingresso vide una lunga fila di persone, di disperate, carichi di sacchetti di plastica, in cui erano racchiuse tutte le loro ricchezze tra virgolette. Tutti questi attendevano l'apertura delle porte per trovare un letto per la notte. Tanta povera gente che durante il giorno aveva percorso le strade di Milano, stendendo la mano per ricevere qualche spicciolo. Disperati che trovavano consolazione spesso in un cartone di vino da pochi soldi, ci viene detto. E dall'altra faccia della città, quella che allora pochi conoscevano. E proprio il pensiero di questi fratelli abbandonati a se stessi lo perseguitò per mesi, cioè il Signore gli mise nel cuore questa fiamma accesa che lo proprio gli fece sgorgare, pensate, andò avanti fino a Natale quell'anno. Quindi, dopo tanti mesi, a Natale decise, con il permesso chiaramente del suo superiore, padre Martignoni, di fare cosa? Di andare al dormitorio con un po' di panettoni e di vino. Voleva fare una piccola festa con queste persone, dalle quali però si accorse che uno dei poveri sembrava escluso, si era messo in un angolo. Perché? Perché portava scarpe troppo vecchie e indurite che gli facevano male, quindi non poteva partecipare a questa grande festa, a questa gioia. Fratello Ettore non trovò altra soluzione che regalargli le sue scarpe e anche le calze, tornando in comunità con quelle del senzatetto. Ma quel Natale, cari amici, fu l'inizio. Infatti, la mattina dopo, quindi il giorno di Santo Stefano, un altro religioso camilliano, un sacerdote, celebrò per la prima volta, pensate, per la prima volta nei corridoi del dormitorio, la prima Santa Messa. Fu un'enorme benedizione per tutti. Pensate, lo stesso direttore del dormitorio, impressionato dalla partecipazione degli ospiti, una partecipazione commossa e profondamente sentita, si sentì in dovere di chiedere proprio ai camigliani di, se fosse possibile, di occuparsi in modo regolare dell'assistenza religiosa di tutte quelle persone abbandonate. Ma anche fratello Ettore si diede subito da fare organizzando il da farsi, per esempio anche la preparazione e la distribuzione gratuita di un pasto caldo ogni sera, aiutato in questo compito da uno dei suoi primi volontari. Si chiamava Sabatino Iefuniello, uno dei primi, dicevamo, una figura straordinaria, cari amici, di cui è stata avviata la causa di beatificazione, ma approfondiremo tra un attimo anche questa bellissima figura. Era comunque tutto questo donare, questo costruire, questo cuore grande che pulsava in Milano. Era solo l'inizio di un'avventura meravigliosa che, pensate, nemmeno la morte di Fratellettore avrebbe concluso. E proprio pensate, il cuore pulsante in cui lui operava era proprio la stazione centrale di Milano, che, come tutte le stazioni ferroviarie delle grandi città, è il punto di raccolta dei poveri e dei disperati d'ogni tipo. E proprio la comunità di San Camillo era ed è vicinissima alla stazione. Allora iniziano ad arrivare poveri che vengono sfamati, a cui danno abiti, danno soprattutto medicine. Ma non bastava. Fratellettore iniziò allora a recarsi, perché pensava anche a molti poveri che non avevano magari vergogna ad andare oppure non si recavano lì. Cosa fa? Va lui a cercarli. Va nelle sale d'aspetto proprio della stazione, proprio quelle dove si raccolgono i più poveri, ma arrivò lì con che cosa? Con sacchi di panini e con pentoloni di minestra per togliere, diceva lui, almeno l'assillo della fame. Rimase però costante il problema della notte, trascorsa dai più avvolti in una coperta sdrucita o in giornali, negli angoli bui della stazione, sulle panche dei corridoi o nei vagoni sui binari morti. Proprio a questo punto nasce l'idea di chiedere ai responsabili delle ferrovie se non vi fosse qualche stanzone che si sarebbe potuto adibire a rifugio. Ne vennero offerti due, però erano privi di finestre sotto il cavalcavia e sopra passavano i treni, come ben sappiamo. Erano in uno stato pietoso, ma in poco tempo, con tanta buona volontà e soprattutto con l'aiuto del nostro servo di Dio, che sarà anche lui attualmente servo di Dio, di Sabatino, di altri volontari, Fratellettore riuscì a farne una prima casa per i senza dimora. E quest'opera grande, anche se non era grande come lo è oggi, ma era profondamente vera, profondamente piena di carità, fu riconosciuta dalla diocesi di Milano. Infatti, il 1 gennaio del 79, Monsignor Libero Tressoldi, che era il vescovo ausiliare di Milano, insieme a padre Martignoni, che era il superiore della clinica San Camillo, e anche all'onorevole Vittorino Colombo, inaugurarono il rifugio di via San Martini. E la notizia è che sotto i vecchi archi della stazione centrale, un frate ospitasse i poveri più poveri della città, si diffuse in un baleno. Ne parlarono i giornali, la radio, la televisione, e i due stanzoni nel frattempo diventarono dormitorio, cucina e refettorio. In fondo al più grande, su una specie di rialzo, venne allestito anche un altare dove ogni giorno si celebrava la Santa Messa. E nonostante il rifugio fosse stato inaugurato, però, questa un po' non era stata ben capita. Nonostante il rifugio, dicevo, fosse stato inaugurato proprio con la presenza del vescovo ausiliare di Milano, di Monsignor Tressoldi, c'erano alcuni critici, fra alcuni critici, che erano alcuni sacerdoti di Milano, che non concordavano sul fatto che Frate Lettore facesse pregare i suoi ospiti prima che questi ricevessero la loro porzione di cibo. Insomma, dicevano che era un'occasione per chi voleva criticare la Chiesa. Tutti diranno che per i preti una minestra costa 10 Ave Maria. A risolvere questo problema intervenne e ci pensò Monsignor Ghetti, allora parroco di Santa Maria del Suffragio, noto anche per il suo impegno tra i giovani. Monsignor Ghetti, molto pratico, dal carattere forte, disse ai confratelli: «Ma perché state a guardare se fa recitare 10 Ave Maria prima di distribuire il pane? Non perdiamoci in chiacchiere, aiutiamolo. Questo frate sta facendo quello che noi avremmo dovuto fare da tempo». E l'intervento proprio di questo Monsignore fu risolutiva e Via San Martini diventò allora il centro di una vasta opera di solidarietà vera. E il bene, lo sappiamo, è contagioso e proprio il grande cuore di Milano non si tirò indietro. Gli ospiti divennero nel tempo sempre più numerosi e ai senzatetto locali si aggiunsero anche gli stranieri, molti senza permesso di soggiorno, anche i malati psichici, gli alcolisti, che non avevano altro punto di riferimento se non questo, una piccola folla, ma possiamo immaginarlo, cari amici, anche difficile da amministrare. Ma lui non perse mai il coraggio, Frate Lettore non si fermò mai. La sua speranza, infatti, la sua forza erano soprattutto e sempre nel Signore e nella sua Santissima Madre. E ad aiutare anche, il lavoro era moltissimo, ad aiutarlo arrivarono anche nuovi volontari, gente che pregava molto anche, lavorava in silenzio. Ma ci fu una visita particolarissima che nessuno si aspettava quel giorno, e una visita illustre, era quella del Cardinal Martini. E Cardinal Martini era l'arcivescovo di Milano allora. E proprio da via San Martini, dove erano, e da Casa Betania a Seveso, Cardinal Martini, come vedremo, anche un'altra grande santa, che è Madre Teresa di Calcutta. Passerà nel 1979, era a Milano per il Movimento per la Vita e andò a trovare anche Frate Lettore. Ma toccherà soprattutto a Monsignor Giovanni Saldarini, che sarà più tardi arcivescovo di Torino, la sorpresa più sorprendente. Infatti, in occasione della sua visita al rifugio, Monsignor Saldarini ricevette, proprio invece di portare, ricevette da Frate Lettore una busta con del denaro, era una donazione che lui voleva fare. E lo stesso Saldarini, lo stesso Monsignore, dopo averla ricevuta, nei giorni successivi, scriverà a Frate Lettore queste parole: «Sono stato contento di aver toccato con mano cosa può fare la carità. Sono rimasto confuso e un po' vergognoso, perché non se l'aspettava, per aver dovuto accettare la sua busta, che non immaginavo così pesante. È vero, dice Monsignor Saldarini, che Dio dà in sovrabbondanza quello che noi doniamo, ma i poveri più poveri sono certamente i suoi. Comunque ho destinato la sua offerta ai nostri sacerdoti anziani e malati, pregheranno per lei e per tutti i suoi ospiti». E quella di Monsignor Saldarini non fu l'unica volta in cui Frato Lettore donò con generosità aiuti, donò invece che chiederne. Lo stesso fece, per esempio, durante il terremoto dell'Irpinia nel 1980. Fece lo stesso durante la guerra in Bosnia, inviando alimenti, vestiario, denaro. E pensate, la cosa che colpisce profondamente è che erano proprio i suoi poveri, quelli che aveva intorno, che lui aiutava, questi stessi poveri donavano quello che potevano per aiutare i fratelli che non conoscevano, ma che sapevano essere nel bisogno. E del resto, il denaro investito, come diceva lui, per i poveri è quello che dà i migliori rendimenti. E a lui successe più volte, ma vi faccio un esempio fra i tanti. Nel maggio del 1981, dopo l'attentato a San Giovanni Paolo II, si recò a visitarlo al Policlinico Gemelli di Roma, dove il Papa era ricoverato. Gli portò come sempre una statua della Madonna e una busta. Questa busta conteneva 1 milione di lire, erano tutte le sue ricchezze di quel momento. Il Papa ne fu profondamente commosso, lo ringraziò di questa cosa. Ebbene, voi pensate, la mattina dopo, un anonimo benefattore si presentò alla porta del rifugio di Via San Martini a Milano con una busta contenente 50 milioni. Questa, cari amici, è la provvidenza vera. Nel frattempo, però, diventa urgente trovare altri ricoveri per centinaia di disperati che ricorrevano a lui per un aiuto. E la Madonna intervenne. Infatti, una signora di Seveso, Seveso è una cittadina della Brianza, gli offrì a un costo bassissimo, quasi regalato, uno stabile e un terreno nel paese. Ovviamente lo stabile era da mettere a posto. E qui, con l'aiuto del sindaco Francesco Rocca, questo sindaco è stato un eroe perché si è fidato totalmente di Fratell'Ettore. Lui aveva addirittura avallato le cambiali di Fratell'Ettore perché la banca, per dargli il prestito per ampliare il rifugio, aveva bisogno di un avallo. E lui andò dal sindaco e questo sindaco era sicuro che avrebbe perso tutto, oltretutto aveva anche un mutuo da pagare. Ebbene, nel giro di una settimana, la Madonna fece sì che Fratell'Ettore avesse tutto il denaro che la banca di cui aveva bisogno. Quindi fu veramente una cosa meravigliosa, una grazia grande, stava a dimostrare la santità di quest'uomo. Quindi dicevo, ecco, con l'aiuto del sindaco di allora, delle autorità comunali, ma anche di alcuni industriali locali, nacque Casa Betania a Seveso, che è anche la sede dell'opera. Ma non si fermò qui. Dopo Casa Betania, altri rifugi, dapprima in Italia e poi all'estero, in un vero e proprio contagio di carità. E lui segue instancabile tutto, tutto e tutti. Anche se la sua salute è sempre più fragile, il suo volto purtroppo sempre più segnato, i capelli bianchi e la schiena sempre più curva e dolente. E per i suoi ospiti lui non è un benefattore, ma è un padre e una madre. È tenero, accogliente, ma sa anche essere un severo educatore. Nei rifugi è proibito ubriacarsi, litigare, ciononostante, possiamo immaginarlo, vista l'eterogeneità delle persone, a volte deve anche intervenire la polizia per sedare piccoli tafferugli. Ma lui va avanti, cerca di essere un educatore che tenta, per quanto gli è possibile, di riportare al decoro, a una vita normale, tutta quella povera gente. E riesce proprio con questo cuore grande a coinvolgere tanti milanesi, ma non solo milanesi, anche tante persone, tanti italiani, anche di altre regioni, che offrono mezzi. Anche mezzi per organizzare piccole attività di lavoro. E sono poi gli stessi ospiti a essere coinvolti nella conduzione delle case. Quindi, una volta che, diciamo, hanno riacquistato questa loro dignità di persone, riprendono coscienza della preziosità che loro hanno, cominciano a condurre le case, a preparare i pasti, a riordinare le stanze, un po' come in una famiglia. E lui, Fratell'Ettore, vuole proprio dare questo, vuole dare il senso della famiglia, della comunità, a tutta questa gente abbandonata a se stessa. E dice una frase molto bella che tocca ognuno di noi, dice così: nessun uomo deve essere solo sulla terra, la vita ha senso solo se ci si accorge di chi ci sta accanto e può aver bisogno di noi. Intanto, dopo Via San Martini a Milano e Casa Betania a Seveso, nasce anche il Villaggio delle Misericordie ad Afori, a Milano Afori. Segue poi Nostra Signora di Loreto, vicino a Bucchianico, la patria di San Camillo, la Sacra Famiglia Grottaferrata, vicino Roma, ma l'Italia non basta più. Infatti, in uno dei suoi viaggi in America Latina, scopre la Colombia con la sua capitale, Santa Fede Bogotà. Bogotà è una città spaccata in due. L'una è poverissima, l'altra è ricchissima. E proprio nella parte povera vede tanti sbandati, poveri senza famiglia, senza tetto, tutti da aiutare, da sfamare, da alloggiare. E qui Padre Brusco, o suo compagno di noviziato e poi superiore generale dell'ordine, lo ricorda così. Insomma, era un uomo che non si fermava mai. Dice Padre Brusco: i mezzi di comunicazione sociale non l'hanno ignorato. Ai cronisti di Milano non sfuggivano le sue iniziative e le sue prese di posizione. Aveva facile accesso al Vaticano, sollevando tensioni presso gli uomini della sicurezza, incapaci di trattenerlo. e frequenti erano gli incontri con il cardinal Martini, che aveva colto la bontà della persona e dei progetti di Frate Ettore, anche se non ne ignorava la singolarità dei modi. Non vi sono dubbi, dice padre Brusco, che Frate Ettore volesse essere visibile. E proprio pensate, la visibilità lo faceva tacciare di protagonismo, ma a lui non interessava affatto il protagonismo. Lo faceva perché voleva essere di aiuto e aiutare i suoi poveri, e li aiutava ovviamente se le persone aiutavano lui. Ma veniva criticato anche il suo modo, almeno da una parte di persone, anche il suo modo di aiutare i poveri. Cioè, lo si vedeva da alcuni come forma di assistenzialismo che incideva poco riguardo a una soluzione dei problemi e del problema sociale. Dobbiamo però dire una cosa, che quest'ultima critica veniva normalmente rivolta anche ad altri santi, come per esempio appunto Madre Teresa di Calcutta, ma anche come un altro venerabile, Marcello Candia. Molti di noi lo conoscono, è morto molti anni fa, molti decenni fa, però questo industriale milanese aveva praticamente utilizzato ogni sua ricchezza, proprio ogni sua ricchezza, per aiutare i poveri più poveri del Brasile. E riguardo a Frate Ettore, anche le processioni cittadine da lui organizzate, oppure la distribuzione a piene mani di rosari e immaginette della Madonna, facevano storcere il naso. Anche le relazioni con i confratelli spesso, insomma, erano problematiche, anche se dei tre superiori generali con i quali lui ha avuto a che fare, viene detto che non hanno avuto esitazioni, ci viene detto, nel riconoscere la validità del particolare modo con cui egli, Frate Ettore, interpretava e realizzava il carisma dell'ordine camilliano. Quindi era totalmente all'interno dell'ordine camilliano. Un po' più problematico il suo rapporto era col provinciale e i superiori della comunità a cui apparteneva. Ma come affermò allora l'allora superiore generale dell'ordine, era padre Frank Monks, padre Monks disse così: Frate Ettore suscitava reazioni positive e negative, perché l'uomo di Dio non sempre è capito da tutti. Non era sempre facile comprenderne il pensiero, perché, dice padre Monks, i santi non pensano sempre a modo nostro, e questo è profondamente vero. Intanto la sua vita però continua ad essere, nonostante la salute cagionevole, a essere un cumulo di impegni, di preoccupazioni, di avventure umane, possiamo dire, cui danno sollievo e sostegno soprattutto alla fede che aveva, una fede veramente grande, illimitata nella misericordia del Signore e nella Vergine Maria, oltre ad una preghiera fervente e presente che non mancava mai. Fratello Ettore, lo sappiamo, era veramente un innamorato fedelissimo della Madonna, e di lei portava in giro con orgoglio, con santo orgoglio, le grandi statue e tutte le immagini, oltre ai rosari. Non si curava però della sua salute, sempre, dicevamo, più precaria, e anche del suo corpo, stanco e ormai mal ridotto, e a volte, pensate, così malconcio da essere costretto a farsi ricoverare in una delle case di cura camilliane a Milano. Ma lui, nonostante il ricovero, non sa stare fermo, è proprio nella sua natura. E se qualche urgenza lo chiama, se gli è possibile, appena gli è possibile, lascia il letto e corre. Con il suo viso sempre più solcato di rughe, ci viene detto, e con la sua talare nera sempre più sdrucita. La sua vita, cari amici, è una vita spesa veramente senza risparmio per i fratelli, per ciascuno che può aver bisogno di lui. E a un certo punto, accanto a lui, il Signore mette una presenza stabile, una presenza forte, sicura. Si chiama Suor Teresa Martino, che ancora oggi guida l'opera. Certo, dobbiamo dire che ogni servizio da lui richiesto volontari era, e ancora oggi resta, difficile, delicato. Infatti gli ospiti dei rifugi sono, lo sappiamo, persone dalle vicende complesse, dicevamo alcolisti, malati psichici senza tetto, gente povera sotto tutti i punti di vista, e soprattutto ai volontari è richiesto di condividere buona parte di queste vite in tutti i sensi, cioè trovare biancheria, abiti, scarpe, cure mediche appropriate, trovare anche un ricovero ospedaliero all'occorrenza. Alcuni devono essere anche cuochi, altri dispensieri, insomma, ognuno ha un suo compito, ma soprattutto tutti devono essere capaci di ascolto, ma di un ascolto affettuoso delle avventure di vita più tristi o particolari. E proprio dicevamo riguardo i volontari, proprio nel 1978, Fratello Ettore Boschini, che ha 50 anni, incontrò un giovane, Sabatino, a cui abbiamo accennato poco fa. Sabatino era un ragazzo di 27 anni, arrivava da Galatina, in Puglia, e aveva trovato a Milano un discreto lavoro come fattorino. Si considerava perciò un ragazzo fortunato e voleva anche lui fare qualcosa, aveva un cuore grande per chi viveva in modo più faticoso di quanto vivesse lui. Allora cosa fece? Si mise a disposizione di Fratello Ettore per aiutarlo a dar da mangiare ai poveri che bussavano alle porte della casa. Ricorda Fratello Ettore, lavoravamo insieme con entusiasmo, al di là delle nostre forze fisiche, e Sabatino non si lamentava mai, era un giovane allegro, riusciva persino a scherzare con i nostri poveri e non si perdeva mai d'animo. È importante dire che proprio lui, cari amici, cioè da Sabatino partì l'idea di chiedere gli stanzoni alle ferrovie, quelli sotto gli archi, appunto del ponte della ferrovia. E cosa fece? Fu talmente, diciamo, coinvolto in questo progetto della provvidenza che decise di lasciare il suo lavoro per stare accanto a Fratello Ettore ad aiutarlo. E così continuò questo ragazzo per 5 anni, fino alla morte avvenuta il 30 agosto del 1982 a causa di una brutta polmonite. E era giovanissimo, aveva poco più di 30 anni. Disse di lui il nostro Fratello Ettore, era buono, umano, cristiano e mariano, disponibile con tutti e amato da tutti. Fu molto di più di un aiutante prezioso. Divenne un autentico testimone dell'amore di Cristo per i sofferenti. Anche il Cardinal Martini, che era, diciamo, un po' di casa nel rifugio qui di Milano, come abbiamo visto andava spesso per quanto poteva andare a trovare sia lui che i suoi ospiti, anche il Cardinal Martini ebbe espressioni toccanti per Sabatino proprio nell'omelia tenuta durante la messa nel trigesimo della sua morte. E disse così il Cardinal Martini, ho potuto cogliere, quando ho avuto la notizia della sua morte, che si trattava della scomparsa tra noi per essere accolto presso Dio di un profeta del nostro tempo. Forse questa parola è troppo grande. Ci sono dei profeti che scrivono, che parlano, che si fanno conoscere, diciamo i profeti maggiori. E poi, dice il cardinale, ci sono i profeti minori, che sono forse quelli che più fanno per il mondo, cioè quelli che non parlano molto, quelli che si fanno poco conoscere, ma che vivono la vita evangelica. Sono tanti questi discepoli. Sabatino è stato uno di questi. È stato mandato in questa città per essere segno umile, discreto, della presenza del Signore. Parole molto belle queste, ma non si ferma qui. Infatti la provvidenza dopo Sabatino fa arrivare un'altra volontaria tra i volontari, Enrica Plevani. Enrica era una giovane contestatrice alla grande allora, poco più che ventenne, e quindi contestava praticamente tutto. Una ragazza lombarda e per curiosità anche ebbe l'occasione di vedere per la prima volta proprio il rifugio qui a Milano in via San Martini, siamo nel 1987. Ebbene, fu talmente colpita perché si rese conto delle grandi tragedie che erano dietro gli ospiti, sulle spalle degli ospiti di Fratello Ettore, che decise di cambiare vita, cioè di completamente di donarsi al loro servizio. Fu una folgorazione come quella di San Paolo qui. Ragazza generosa, instancabile, veramente fedele ai suoi impegni, si prodigò, cari amici, senza risparmio, distribuendo a piene mani la gioia e la speranza. Era stimolo e forza non solo per Fratello Ettore e per i suoi poveri, ma anche per gli altri volontari, per tutti quelli che venivano in contatto in un modo o nell'altro con lei. Pensate, lei era molto malata, ma non confidò mai a nessuno il suo stato di salute, continuando il suo impegno con una generosità impressionante, senza mai dare a vedere la stanchezza. Morì anch'essa giovane, non aveva neanche 30 anni, nel febbraio del 1990, dopo infinite sofferenze, proprio causatele da un linfosarcoma gastrico. E proprio, cari amici, di questa ragazza, di Enrica Plebani, Fratello Ettore scriverà così: la sua forza derivava dalla sua fede e si evidenziava in un sorriso luminoso. Il sorriso che si proietta sul volto di coloro che la vivono profondamente. Ne ho fatto a lungo l'esperienza, tanto da chiederglielo quando ero in momenti di grande sofferenza. Enrica, le dicevo, sorridimi. E lei mi illuminava di virtù e di purezza, sino a farmi pensare che dopo Maria Santissima, la mamma celeste, e Carolina, la mia mamma naturale, lei fosse la mia mamma acquisita. E così ricorda anche l'ultimo Natale, il suo e di Enrica, dice: "Non conoscevo la sua profonda sofferenza. Non sapevo che la mia malattia, una bronchite quasi cronica durante l'inverno, avrebbe potuto scatenare in lei ben più della brutta broncopolmonite che mi colpì pochi giorni più tardi." Quanto corremmo in quella fine di dicembre per aiutare, questo era l'ultimo anno, per aiutare molti nostri fratelli e sorelle di Milano, italiani e stranieri, affinché anch'essi potessero godere del fuoco d'amore che a Natale si sprigiona per ogni dove. Dappertutto Enrica volava con la macchina, sospinta più dalla profonda fede che dalla sua forza fisica, sempre più limitata e precaria, e annunciava: "Presto sarà Natale, verrà celebrata una messa per voi, venite, adoriamo." E in una delle ultime lettere inviate dall'ospedale Sacco, dove era ricoverata, scrisse a Fratellettore queste parole meravigliose. Scrisse così: "Grazie, Fratellettore, per questo splendido Natale che ho potuto condividere con te e con i tuoi poveri nella sofferenza, nella stanchezza, ma ancor più nell'immensa gioia dell'attesa e dell'accoglienza. Grazie Gesù, grazie Giuseppe, grazie Maria, che avete permesso che anch'io oggi potessi accogliervi, amarvi, consolarvi, sorridervi, abbracciarvi e baciarvi, incontrandovi nel volto dei consacrati, sacerdoti e laici, nei volti dei bambini, degli oppressi, degli emarginati, dei sofferenti, dei delinquenti, dei ladroni. Grazie perché anche oggi mi avete donato tutto il vostro amore e il vostro calore. Grazie della grazia che ho potuto condividere con te, Ettore, fratello mio in Gesù Cristo, nostro Signore." Ecco, dicevamo che sia per Sabatino che Enrica è in corso il processo canonico di beatificazione, un esempio meraviglioso di una donazione senza limiti, veramente totale ai fratelli. Ma tornando al nostro fratello Ettore, anche lui avanti fino all'ultimo giorno, abbandonato alla volontà di Dio e nello stesso tempo desideroso di vivere ancora per portare avanti, come diceva lui, la sua baracca. Aveva scritto poco prima di morire: "Penso che quest'opera per gli ultimi, i diseredati, gli emarginati, sia stata proprio voluta del Signore. Egli fa cose ben più grandi, anche solo con una mascella d'asino. Dunque, perché stupirci se ha fatto queste belle cose con un poveraccio come me? Ma io mi stupisco ancora e richiedo: ma è vero, tutto vero ciò che sto osservando, tutto ciò che si sta compiendo?" E mi rispondo così: chi confida nel Signore non manca di nulla. E qui vi do una notizia che vi stupirà un pochino. Infatti, nel frattempo, in ospedale, dove era ricoverato, teneva la radiolina sul comodino perennemente sintonizzata su Radio Maria. E infatti lui dice a questo proposito: "Non riesco a dormire più di 2 ore di seguito, così recito il rosario anche la notte, per tutti, per le anime consacrate, per le famiglie, per i bambini non nati, per quella spaventosa voragine rappresentata dagli aborti. Quale mondo ci aspetta se non rispettiamo i comandamenti?" E poco prima di chiudere gli occhi a questo mondo, espresse un desiderio. Disse: "Se il Signore mi dà vita, vorrei fare una grande festa il 25 ottobre del 2005." Questo era il ricordo della sua professione religiosa. Ma il Signore, cari amici, volle che la sua festa si facesse in cielo. Infatti il nostro povero e santo frate morì a 76 anni l'anno prima, il 20 agosto del 2004. Pronto? Pronto, Eccomi. buonasera. Allora, io ho ascoltato le cose di Fratello Ettore, sono cose Sì. molto, molto belle perché ho conosciuto un po' anche la vita di Fratello Ettore, perché ho conosciuto il posto e la volevo ringraziare. Siamo già a posto. Va bene. Come si chiama lei? Perché ha detto delle cose splendide, belle, perciò volevo solo ringraziarla. Volevo ringraziarla perché ha dimostrato veramente. Ha dato una fede a chi ha fede. Ringraziamo Fratello Ettore proprio per questa bellissima vita che ha donato per tanti fratelli. Questa è una cosa molto, molto bella. Poi comunque vi darò eventualmente anche il numero di telefono della sede della Casa Madre dell'Opera, Fratello Ettore, che è a Seveso, Casa Betania, in questo caso. Se volete avere anche, diciamo, ulteriori approfondimenti anche riguardo ad eventuali libri o alle biografie di questo servo di Dio. Pronto? Pronto, buonasera, pace e bene. Sono molto commossa perché io sono stata con lui. Sono Serafina, chiamo dalla provincia di Bari. Ero a Milano nel periodo più brutto della mia vita e ho avuto la grazia di dargli da mangiare a Fratello Ettore. Lui, sono molto commossa. Io sono un'infermiera. Lui era gravemente malato nel 2004, era ricoverato in ospedale. Io sono andata lì semplicemente perché ero a un bivio molto triste. Lui mi ha preso la mano e mi ha detto: stai con me e dammi da mangiare. Mi ha raccontato la mia vita, dalla mia infanzia fino a quel giorno, e mi ha detto: tuo padre ha bisogno di te, torna al tuo paese e poi ritorna e cambia vita. Vuoi prendere il posto di Enrica, quella ragazza di cui avete parlato che è deceduta? Io ho detto di no perché mi sono spaventata. Mi ha detto: tu farai qualcosa di quello che ho fatto io. Gli dissi: Fratello Ettore, sono una peccatrice, non è possibile. Dice: poi vedrai. Io ho creduto che mio padre stesse veramente male, ho preso le valigie, sono tornata giù nel mio paese. Mio padre aveva avuto degli infarti e se non fossi io scesa giù sarebbe morto. Mio padre si è ricoverato, operato al cuore, 12 ore. Fratello Ettore moriva in quel momento. L'ho visto in televisione, i funerali di Stato. Fratello Ettore mi ha cambiato la vita. Io, grazie a lui, da quel giorno ho conosciuto Gesù, e Maria, ho un cenacolo per i bambini mai nati. Non sapevo, grazie a lei, ora so, ecco perché, da dove mi è venuta l'ispirazione per i bambini mai nati e l'amore per fermare gli aborti, e questa cosa mi viene ostacolata. Da oggi ritornerò a pregare Fratello Ettore. Io devo a lui tutta la mia vita, dal 2004 ad oggi. Aggiungo che Fratello Ettore dormiva in un garage. A un certo punto lui lasciò i Camigliani perché voleva veramente vivere nella povertà più totale, perché ci furono dei contrasti ideologici. Lui era un estremista, aveva la Madonna sull'auto, era chiamato il pazzo d'amore di Milano. Gli devo tutto, anche la vita di mio padre, che ora ha 86 anni, è molto malato ma è vivo, grazie al suo intervento nel 2004. Io amo Fratello Ettore, posso testimoniare che volevo suicidarmi, lui mi ha salvato la vita. Quindi grazie infinitamente, pregate per me, per questa chiamata a pro vita che ha tanti ostacoli, che lui interceda con Enrica per questa chiamata per fermare gli aborti e dare un nome a ogni bambino mai nato e celebrare messe per loro. Grazie, Dio vi benedica di cuore. Grazie a te Serafina per questa bella testimonianza, grazie a te, insomma ci tocca il cuore, ecco, quello che tu ci hai detto, e sicuramente vi ricorderemo tutti. Grazie anche all'ascoltatore che ci ha chiamato prima, non abbiamo purtroppo altro tempo per altre telefonate perché adesso c'è una cosa più importante che è il Santo Rosario, però prima di lasciarci vi do il telefono e anche l'email dell'opera Fratello Ettore. Il telefono è della sede di Seveso ed è 0362 551332. Lo ripeto, 0362 551332. Questo è il telefono della sede di Casa Betania a Seveso. L'email invece, dove potete trovare un po' tutto, è Opera Fratello Ettore, tutto attaccato, opera Fratel Ettore, @gmail.com. Ecco, potete chiedere qui naturalmente o delle immaginette, oppure se volete, diciamo, approfondimenti sulla biografia, sulla vita di Fratel Ettore, anche su Enrica Plebani e su Sabatino, su questi due servi di Dio in cui sta andando avanti la causa di beatificazione. Bene, io vi ringrazio e do un abbraccio a tutti voi, a Dio piacendo, ci sentiremo il primo lunedì di marzo. Ricordo sempre che se volete, già domani potete scaricare gratuitamente, come fa Radio Maria sempre, la vita che ho presentato questa sera. Buona serata a tutti, anzi buonanotte in questo caso e buon mese di febbraio a tutti da Angelo. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.